Se ostinata nel resisti a me resisti, più non trovi venitore, ti consiglio col tuo onore, e paventa il mio rigor. Il mio rigor, il mio rigor. Se ostinata me resisti, non trovi il genitore, ti consiglio col tuo onore, e paventa il mio rigor, il mio rigor, ti consiglio col tuo onore, e paventa il mio rigor, e paventa il mio rigor. Tragga qualche estremo, scaccia figlia dal tuo